go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back. It's coming, football's coming home, it's coming. So sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, 'cause I remember three lines on the shirt, Jules Rimet still gleaming, 30 years of hurt, never stop me dreaming. Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti, benvenuti al terzo appuntamento di Football Coming Home. E in questo terzo appuntamento ce ne andiamo dall'altra parte del mondo. Diciamo che è il primo capitolo di una serie di puntate che poi pubblicheremo nell'arco, tra virgolette, di questa stagione di Football Coming Home, e parliamo di un argomento che per noi che siamo da questa parte del globo è di difficile comprensione, ovvero il calcio sudamericano. Analizzandolo nei suoi aspetti, nella storia, analizzandolo nella storia di giocatori, uomini, ma anche di squadre e soprattutto di grandi rivalità, perché il calcio sudamericano è fatto anche e soprattutto di grandi rivalità. E quest'oggi parleremo di una nazione che vive il calcio in maniera totalmente viscerale, ma è difficile trovare un paese in Sud America che non viva il calcio in maniera così viscerale, forse più di qualsiasi nazione del mondo. Stiamo parlando dell'Argentina, l'Argentina che è il paese di Maradona, di Messi, ma di tanti e tanti uomini e giocatori che hanno segnato pagine importanti del calcio sudamericano, ma non solo. E per cui oggi ce ne andiamo in Argentina. Thank you. calcio argentino inizialmente ha una paternità e una maternità, una paternità che è quella degli inglesi e la maternità che è quella degli italiani. Infatti molti argentini sono di origini italiane, molti giocatori tra i più importanti hanno origini italiane. Però per primi arrivano gli inglesi che hanno esportato il calcio in tutto il mondo, compreso da noi, dove ci sono squadre come il Genoa e il Milan che sono state fondate da inglesi, e sostanzialmente succede la stessa cosa lì in Argentina, dove gli inglesi cercano di spiegare agli indisciplinati argentini come funziona il gioco del calcio. Ovviamente questo tentativo di spiegare il gioco del calcio agli argentini diventa un po' difficile. Infatti a un certo punto gli argentini dicono grazie per averci insegnato il gioco, adesso noi lo facciamo a modo nostro. Infatti il calcio argentino tutt'oggi viene chiamato sin da allora la nuestra, ovvero il nostro modo di vivere il calcio, perché il calcio inteso dagli argentini non era quel calcio statico dell'epoca dove come giocavano gli inglesi e come sostanzialmente si giocava in Europa, però era un calcio più, tra virgolette, se proprio dobbiamo utilizzare un termine, direi circense, proprio se proprio dobbiamo proprio utilizzare un termine circense, perché loro giocavano di prima colpi di testa, rabone, rulete, bicicletta, insomma dei giochi e dei tocchi di palla veramente spettacolari che delinearono, diciamo, il loro modo di giocare e ne fecero il loro marchio di fabbrica sostanzialmente. Agli inglesi si devono alcuni club, come anche dal nome di alcuni club importanti del calcio argentino, derivano dall'Inghilterra o da inglesi, come per esempio il Newell's Old Boys, che sostanzialmente è una squadra che è stata dedicata sostanzialmente al professor Newell's, che portò a Rosario il gioco del calcio, e poi ci fu per esempio il River Plate, che ha un nome inglese, il Racing di Avellaneda ha un nome inglese, ma non soltanto in Argentina. Diciamo, se andiamo ad analizzare il resto del Sud America, molte squadre sudamericani portano nomi inglesi, perché sono gli inglesi che sono andati lì come evangelisti a portare il nome del dio del calcio, per cui c'è tanto di Inghilterra, ma anche gli italiani fecero tantissimo per il calcio nell'Argentina. Innanzitutto molti dei più grandi giocatori argentini hanno origini italiane, anche lo stesso Lionel Messi ha origini italiane. È ovvio che poi molti italiani fondano delle squadre, come per esempio il Boca Juniors. Il Boca Juniors è fondato da immigrati genovesi che si chiamavano in dialetto ligure Xeneises, e ancora tutt'oggi i tifosi del Boca Juniors vengono chiamati Xeneises, e lì decisero di fondare questo club, ovvero il Boca Juniors. Molte altre squadre furono fondate anche da italiani, come per esempio il Vélez Sarsfield, un altro nome inglese, però furono gli italiani a fondarlo. Il calcio argentino, grazie agli inglesi e agli italiani, prende il volo e inizia ad avere una propria storia. Oh! Le rivalità in Argentina sono amplificate all'ennesima potenza e la più grande rivalità del calcio argentino è quella tra Boca Juniors e River Plate. Inizialmente Boca e River vivono nello stesso quartiere, ovvero quello popolare della Boca. C'è rivalità, ma non tanto. Però succede qualcosa che fa aumentare questa rivalità e la porterà a picchi vicino all'odio totale tra le fazioni. Ovvero il River Plate vende due dei suoi giocatori più forti, Di Stefano al Real e Seaward alla Juventus, e con gli incassi, tantissimi soldi di queste vendite, di questi due grandissimi campioni, si trasferisce dall'altra parte della città, ovvero nel quartiere residenziale borghese di Núñez, e va a costruire non uno stadio, ma lo stadio più grande, uno dei più grandi del Sud America dopo il Maracanã, ovvero il Monumental. Uno stadio immenso, dove c'è anche una curva che è intitolata Omar Sivori, ovvero la Sivori. E da lì in poi il River Plate ostenta ricchezza, ostenta grandezza, e infatti si fanno chiamare al Mas Grande e si fanno anche chiamare Los Millonarios, e vanno a ostentare questa ricchezza in faccia ai quelli del Boca Juniors, che sono rimasti e rimarranno per sempre nella piccola Bombonera, lo stadio della Bombonera dove ancora tutt'oggi gioca il Boca, e che tra l'altro, pur essendo piccola, è una delle mete più ricercate per chi va in vacanza a Buenos Aires, tra l'altro. E i tifosi del Boca, che tra virgolette Boca Juniors, i tifosi del Boca si chiamano Xeneises, ovvero genovesi in dialetto ligure, perché il Boca è stato fondato da italiani e da genovesi, gli Xeneises chiamano quelli del Rivers la Gaginas, e quelli del River chiamano quelli del Boca Juniors, ovvero pezzenti, poveri, eccetera eccetera. Insomma, iniziano a prendersi in giro, insomma, e l'odio della rivalità cresce, soprattutto nelle partite più importanti, ovvero i derby, perché i derby diventano delle vere e proprie guerre. Non sono una partita di campionato normale, è una partita a parte. Boca-River, River-Boca sono una cosa a parte, che è vissuta come se fosse la partita da vincere assolutamente. E in queste partite brillano giocatori fortissimi, a partire da giocatori come Pedernera e quelli della Macchina, che vinceranno con River Plate 4 titoli tra gli anni 40 e i primi anni 50. Come giocatori importantissimi, anche dalla parte del Boca, uno su tutti, Diego Armando Maradona, che vive due vite al Boca Juniors, uno durante la sua gioventù e un'altra a fine carriera, dove segnerà tanti e tanti gol. Giocatori come Francescoli, come Herman Crespo, che segneranno la storia del River Plate, o dall'altra parte giocatori come Martin Palermo, come Riquelme, come Tevez, o giocatori come lo stesso Gonzalo Higuaín, che segneranno e faranno sì che questa rivalità aumenti anno dopo anno in maniera esponenziale, fino a quello che è successo lo scorso novembre. We'll be right back. nostra passione. La più grande gioia dei tifosi del Boca Juniors arriva nel 2011, quando i loro nemici, i loro rivali, quelli del River Plate, El Mas Grande, Los Millonarios, per la prima volta nella loro storia retrocedono nella Serie B argentina. È una gioia immensa per i tifosi del Boca Juniors, che alla Boca festeggeranno per settimane intere. Paragoneranno quella retrocessione come una vittoria della Libertadores, anzi più di una. Quelli del River ovviamente sono nello sconforto totale, perché il Monumentale, il grande stadio di Buenos Aires, dovrà ospitare partite della Serie B argentina. Ovviamente il River ci sarà un anno nella Serie B argentina, poi risalirà grazie ad Almeida, vecchia conoscenza del nostro calcio. E la vendetta per i tifosi del River è un piatto che va servito freddo, e arriva nel momento forse migliore della loro storia, nel momento esatto, nel momento giusto della loro storia, ovvero nella scorsa finale di Coppa Libertadores. Per la prima volta nella storia, in finale, ovvero la Coppa Libertadores è l'equivalente della Champions League del Sud America, in finale ci arrivano River e Boca, ed è la prima volta che succede che River e Boca si scontrino e si giocano una finale così importante. È il derby dei derby, è il classico dei classici. Chi vince sarà portato all'altare della gloria eterna, chi perde sarà portato all'inferno per sempre, perché il grande classico non si può perdere, è impossibile perdere. Però questa finale, più che una finale, è un'odissea, un racconto che dura un mese. È un'agonia continua che non finisce mai. C'è di tutto in queste due partite, perché sono due le partite della finale, non è... e sarà l'ultima volta che la finale di Coppa Libertadores si deciderà con partite d'andata e ritorno. La partita d'andata si gioca a Buenos Aires, ovviamente, alla Bombonera. Quel giorno su Buenos Aires c'è il diluvio universale, piove l'impossibile e si allaga la Bombonera. La partita viene rinviata al giorno dopo. La partita si gioca, si pareggia 2-2, non c'è la regola del gol di trasferta, quindi parità assoluta tra River e Boca. Si deciderà tutto al Monumental la settimana successiva. Però succede qualcosa di grave. Il pullman del Boca Juniors all'arrivo del Monumentale il giorno della partita viene preso dai tifosi del River a sassate. Qualcuno lancia roba urticante all'interno del pullman del Boca Juniors e molti giocatori si ritrovano con gli occhi irritati, qualcuno non riesce più a vedere. Insomma, la situazione è grave, è come se ci fosse la guerriglia urbana. E la partita viene sospesa perché i giocatori del Boca Juniors non sono in grado di giocare quella partita. E succede un casino: il presidente del River, quello del Boca, il presidente della CONMEBOL, che sarebbe l'UEFA del Sud America, non riescono a trovare un accordo su come rigiocare la partita. Si tende di giocarla più e più volte, ma non si riesce a trovare un accordo per giocarla in Argentina al Monumental. Così qualcuno propone Genova come città, il Ferraris di Genova come sede neutra dove giocare il ritorno della Libertadores. Però alla fine si ci mette d'accordo, la finale della Coppa Libertadores in maniera molto anomala si giocherà a Madrid, al Santiago Bernabéu. Ed è qualcosa di strano, molti tifosi dicono adesso non la vogliamo più, è stato rovinato tutto quanto. Ma allo stesso punto io mi chiedo, sono gli stessi tifosi che hanno rovinato tutto? Perché se non fosse successo che il pullman del Boca non venisse preso a sassate, quella partita quel giorno si sarebbe giocata al Monumentale. Ed è qualcosa di incredibile, perché una finale di Coppa Libertadores giocata in Europa è come se una finale di Champions League si giocasse a Caracas. È qualcosa di impensabile, no? E così alla fine della storia si gioca a Madrid una partita che per molti tifosi non ha più significato, non ha più senso. Per gli argentini rappresenta un momento difficile, perché molti giornali scriveranno avevamo gli occhi del mondo puntati addosso e abbiamo sprecato questa grande opportunità facendo vedere il nostro lato più brutto. Ovviamente la partita si gioca, River Plate vincerà quella partita per 3-1, si vendicherà sul Boca Juniors e alzerà al cielo di Madrid la loro quarta Coppa Libertadores della storia. Però rimane questo neo di questa guerriglia, nonostante tutto, per il River Plate è la gioia delle gioie, perché hanno vinto il classico dei classici. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito, tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Dejar de hablar no combina con gente valiente. Baterista de pequeño, rapero cuando adulto. Por eso riman a tiempo todos mis insultos. A las mentalidades prehistóricas las capturo con grosería, luego las mato con retórica. Los problemas no se dan por sentado, y más cuando hay abuso de parte del Estado. Sería muy fácil para mí escribir un bolero o hacer un video rapeando encima de un velero con mujeres en pelotas acariciándome los huevos. Sacrificar mis ideales para venderte un disco nuevo. Si es así mejor me quedo. No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo. Oye, conformarse y dejar de insistir es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir. No importa si me escucha una sola persona por esta vez. Cuando conecto a uno, conecto a diez. ¿Qué importa si no sueno en la radio de mi país? Tengo el mundo dando vueltas con las letras que escribí. Me censuraron por razones obvias, porque fui más honesto con ustedes que lo que fui con mi exnovia. Yo soy el que te recuerda cómo estamos de jodidos y que todos tus problemas pueden ser como los míos. Oye, yo soy todo lo que tú escondes. Soy el que está para ti, dime cómo, cuándo y dónde. Oye, siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Hoy te va a conocer el mundo entero. Te voy a hacer famoso, pero por periquero. Alcalde drogadicto con cara de idiota. Ganarme esos Grammy fue como venirme en tu boca. Eres corrupto, tú lo sabes, yo no me chupo el dedo. Tienes cara de narcotraficante con miedo. Con el dinero de las regalías de esta canción, te prometo que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación. No me vengas a amenazar con la CIA. Yo también tengo amigos policías, amigos en México, Colombia y Venezuela, Cuba, Argentina, y hablo con ellos todos los días. Tengo amigos que te han visto capeando el perico, la coca, hueliendo, olfateando. Pa' que no digan que esto es un montaje, yo te invito a hacernos la prueba de dopaje. Una delle rivalità più accese del calcio argentino è anche quella del quartiere della Avellaneda, un quartiere piccolissimo e poverissimo, dove sorgono due stadi, uno che dista dall'altro circa 300 metri, praticamente sono due stadi che si vedono l'uno con l'altro. E lì ci sono l'Independiente, chiamati anche Rey de Copas, perché è la squadra argentina con più Coppe Libertadores vinte, e il Racing, altra squadra rivale dell'Independiente. Sono rossi contro blu ed è una rivalità accesissima che inizialmente parte dallo scherzo, allo sfottò, e oggi si è tramutata in vera e propria violenza da gang che oltrepassa il rettangolo di gioco e la vita del sportiva del club, dei club. Un aneddoto da raccontare tra il Racing e l'Independiente è quello della Coppa Libertadores vinta e della Coppa Intercontinentale da giocare. Nel 65 la Coppa Libertadores viene vinta dall'Independiente, quindi vanno a giocare la Coppa Intercontinentale, che all'epoca non si giocava in Giappone in sede unica, ma si giocava sostanzialmente in partite di andata e ritorno. Durante la partita d'andata della Coppa Intercontinentale, i tifosi del Racing approfittano dell'assenza di quelli dell'Independiente per andare ad allagare lo stadio e renderlo praticamente inagibile, una vera e propria piscina a cielo aperto sostanzialmente. E due anni dopo la vendetta dei tifosi dell'Independiente, perché il Racing vince la Coppa Libertadores e va a giocare col Celtic Glasgow, a Glasgow appunto, l'andata dell'Intercontinentale. E cosa fanno quelli dell'Independiente? Prendono sette gatti morti, scavano una grossa buca e praticamente seppelliscono questi sette gatti morti e scrivono sul muro dello stadio: abbiamo seppellito sette gatti morti, da qui in avanti non vincerete nulla. Quella Coppa Intercontinentale il Racing la vincerà, però da lì in avanti non vincerà più nessun trofeo a livello internazionale. E ancora tutt'oggi non ha mai più vinto da quell'Intercontinentale nessun trofeo internazionale, per cui è una sfiga. E molti tifosi del Racing vorrebbero sostanzialmente abbattere quello stadio per trovare quei gatti, e tante volte sono state scavate delle fosse per cercare quei gatti, però non sono mai stati trovati. Probabilmente era una presa in giro dei tifosi dell'Independiente, quei gatti non sono stati mai seppelliti probabilmente, però fatto sta che da allora non hanno vinto più niente a livello internazionale. Col passare degli anni questi, diciamo, difetti, questi scherzi tra tifoserie diventano delle vere e proprie battaglie, delle violente battaglie da gang americane del West Side di Los Angeles, e muoiono persone, e non ha più a che fare con il calcio, la vita del club, l'essere tifosi. C'è da dire una cosa, che in Argentina le squadre hanno un azionariato popolare e quindi i presidenti vengono scelti dai tifosi. I tifosi vengono, diciamo, dalle barras bravo, ovvero dai gruppi, tra virgolette, ultra del calcio, delle varie squadre del calcio argentino. E le barras brava decidono e possono condizionare la vita di un club nel bene e nel male. La barras brava più importante è quella del Boca Juniors, la 12. La 12, che praticamente è la 12 in italiano, vede nel suo capo, Rafa De Zeo, un vero e proprio personaggio pubblico. Infatti si parlava prima della finale di Madrid, della Libertadores, se De Zeo poteva andare a Madrid a vedere la partita o meno, ma discorsi nelle varie TV argentine di ore e ore e ore per parlare di Rafa De Zeo. E c'è da aggiungere una cosa che mi ha colpito molto delle tifoserie argentine: c'è la televisione argentina che prima di un match filma i tifosi che vanno in trasferta dal proprio stadio fino allo stadio dove la propria squadra giocherà in trasferta, seguendo live, facendo la telecronaca del percorso del Barras Brava, dandogli una certa importanza che probabilmente forse non meriterebbero. Però oggi il calcio argentino è nelle mani delle tifoserie che scelgono un proprio rappresentante come presidente. E oggi possiamo dire che i club sudamericani in generale non hanno più quella forza economica di un tempo da poter contrastare i club europei nella vittoria di un mondiale per club. Infatti nello scorso mondiale per club il River Plate è uscito fuori ai rigori contro una squadra araba, e questo la dice lunga come il calcio sudamericano a livello di qualità si sia un po' livellato verso il basso, però rimane sempre un mondo a parte. Esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Toda la pobre inocencia de la gente. fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Anche a Rosario, seconda città dell'Argentina, c'è una grande rivalità. C'è la rivalità tra il Newell's Old Boys e il Rosario Central. All'inizio, come in tutte le storie di squadre della stessa città, una squadra rappresenta la parte borghese e la parte popolare. Oggi non è proprio così. All'epoca, però, sì. C'è il Newell's Old Boys, squadra che era seguita dai borghesi della città. Squadra che è l'unico caso nella storia del calcio che porta il nome del suo fondatore, ovvero il professor Newell's, che andò lì a Rosario a insegnare l'inglese ma portò con sé un pallone, da lì nacque questa squadra. Dall'altra parte ci sono gli italiani che hanno fondato il Rosario Central, squadra che doveva essere prima del dopolavoro ferroviario, poi diventò una vera e propria squadra di club. E queste due squadre dagli anni 40 in poi hanno una rivalità accesissima. Questa rivalità arriva quando un giorno quelli della Caritas di Rosario chiedono un incontro tra le due squadre per devolvere l'incasso della partita, appunto, in beneficenza. Entrambe le squadre accettano, soltanto che poi il Newell's Old Boys si presenta e il Rosario Central a quella partita non ci andrà mai. Il Newell's Old Boys si sente offeso e va a cercare quelli del Rosario Central. Quando li trovano, gli urlano: voi siete delle canaglie, voi siete delle canaglie perché avete rifiutato di giocare una partita per beneficenza e aiutare le persone in difficoltà. Quelli del Rosario diranno: ah sì, noi siamo delle canaglie, se noi siamo delle canaglie voi siete dei lebrosi oppure leprosos. E oggi questi soprannomi si identificano con la squadra, ovvero quelli del Newell's sono i leprosi e quelli del Rosario Central sono las canagias. Tra i grandi personaggi che hanno calcato, segnato la storia di queste due squadre ce ne sono tantissimi. Al Newell's hanno giocato giocatori come Libonati, giocatore che fece un'ottima carriera al Torino. Ci furono giocatori come Abel Balbo, come Gabriel Omar Batistuta, come il Tata Martino, che allenò poi sia il Barça che la nazionale argentina, ma soprattutto il simbolo dei Newell's Old Boys è un allenatore sui generis, un allenatore a cui è intitolato lo stadio nonostante lui ancora oggi sia in vita. Stiamo parlando del Loco Bielsa. Conosciamo tutti Bielsa, un personaggio un po' sui generis, un personaggio che non è che abbia vinto tantissimo, ma è un personaggio molto affascinante, da romanzo, uno che vive il calcio in una maniera totalmente diversa. E tra i suoi adepti, per esempio, Bielsa ha Guardiola, che di cui è stato l'ultimo allenatore, perché Guardiola dopo l'Italia andò a giocare qualche mese in Messico e si trovò il Loco Bielsa in Messico, che lo istruì, e per lui è una sorta di oracolo sostanzialmente. E Loco Bielsa, che appunto dopo che gli è stato intitolato lo stadio, ci sta molto alla larga, non c'è più entrato all'interno di quello stadio. E Bielsa è così amato dalla gente del Newell's perché sostanzialmente fece vincere l'ultimo titolo del Newell's Old Boys dopo una remontata che vedeva la squadra, dopo le prime giornate di quel campionato di clausura, nelle ultime posizioni. Bielsa continua a giocare, a giocare, a giocare, alla fine questa remontata dall'ultimo posto al primo posto arriva. E c'è una frase di Bielsa che è un'effigie per la gente del Newell's Old Boys, ovvero Newell's Carajo, ovvero il Newell's è forte. Il Newell's Old Boys è molto legato a questo personaggio. Dall'altra parte, il Rosario Central ha anche personaggi non indifferenti, nel senso che il Rosario Central a giocatori come Menotti, che poi sarà l'allenatore del Mundial del 78, giocatori come Pedro Poi, che fu l'eroe dello scudetto del Rosario Central in una finale, perché all'epoca c'era la finale, perché arrivarono, ci fu un campionato dove l'apertura e clausura, e a pari punti arrivarono Rosario Central e Newell's Old Boys, e ci fu questa sorta di spareggio alla Bombonera a Buenos Aires, e ci fu un esodo di tutte e due le tifoserie lì. Era il derby dei derby, e un difensore, Aldro Pedro, poi vinse, questo segnò di testa questo, il gol decisivo della vittoria dello scudetto del Rosario Central, e da allora, per i successivi, dal 72 ancora tutt'oggi, ogni anno per la ricorrenza da quello scudetto vinto, Pedro poi mima il colpo di testa che lui ha fatto segnandolo al Newell's Old Boys. Oggi lo mima con più fatica perché ha una certa età, però viene celebrato in una maniera eccessiva, forse tipica del Sud America, tipica dell'Argentina. E così ci sono queste due squadre che si contendono il primato. C'è da dire che da un lato ci sono due grandi giocatori. Uno ha giocato pochissimo al Rosario Central, è andato via troppo presto. L'altro ci ha giocato da piccolo, poi a 13 anni è andato via. Uno è Lionel Messi, che giocò nel Newell's Old Boys da bambino praticamente, andò via a 13 anni perché lui, il club gli dava una mano, visto che aveva dei problemi di crescita, nel farlo per fargli risolvere i suoi problemi inerenti all'ormone della crescita, gli diede tutte le cure possibili per farlo crescere. Però arrivò la crisi in Argentina, e quindi il Newell's Old Boys non poté garantire le cure necessarie per Messi per continuare a giocare. Così andò poi a 13 anni a Barcellona, e sappiamo quello che ha fatto. Dall'altra parte c'è il Fideo, lo spaghetto, ovvero Angel Di Maria, giocatore che ha giocato tantissimo in Europa, tra Benfica, Real Madrid, Paris Saint Germain, Manchester United, ha giocato e gioca ancora tutt'oggi ad altissimi livelli. Ed sono loro i messie che hanno promesso a entrambe le tifoserie che giocheranno loro fine carriera nelle rispettive squadre. Ovviamente Messi non ha mai avuto una presenza nel campionato argentino, perché a 13 anni andò al Barcellona e non ci fu più la possibilità di poterci giocare. Angel Di Maria fece una stagione e mezza e poi fu comprato dal Benfica, e il Rosario Central non poté far nulla per trattenerlo. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, oh, si es loco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! I mondiali vinti dall'Argentina sono due. Uno è ricordato con gioia, quello dell'86 di Diego Armando Maradona. Quello che viene ricordato con meno gioia, anzi molti vorrebbero anche dimenticare, è quello del 78. Per molti quello fu il mondiale della vergogna. Siamo nel 1978 in Argentina, e in Argentina c'è la giunta militare che, con un colpo di stato, la ZE, anche i servizi segreti americani, si impossessa del paese. In tanti parlano dell'eventualità di spostare la Coppa del Mondo dall'Argentina, perché c'è una situazione poco piacevole nel paese, perché il mondiale venne assegnato 5 anni prima che appunto la giunta militare entrò a prendere il potere del paese. Però per la giunta militare quella Coppa del Mondo era un modo, così come per Hitler le Olimpiadi del 1936, per farsi propaganda, per farsi vedere potenti e belli nel mondo. Però quella giunta militare, proprio come Hitler, utilizza dei metodi molto squadristici, nel senso che chi era contro o chi era dissidente contro il modo di fare del regime di Videla, che è il presidente, che era un alto in grado dell'esercito argentino, e poi in maniera, diciamo, non democratica venne designato come dittatore, come presidente dell'Argentina, chi era contro di lui veniva praticamente fatto sparire per sempre, nel senso che molti giovani, molti studenti universitari che manifestavano contro il regime venivano praticamente presi, portati via in zone dislocate della città di Buenos Aires e del paese, venivano torturati, venivano uccisi, fatti a pezzi, e poi ogni mercoledì dall'aeroporto di Buenos Aires un aereo cargo militare partiva verso i mari al largo del Venezuela e della Colombia, per poi buttare via i resti dei corpi dei desaparecidos, così si venivano chiamati chi era contro questo sistema, questo regime, a mare, e venivano fatti sparire per sempre. Ogni mercoledì si vedeva quell'aereo e si pensava che lì c'erano dei morti, sostanzialmente. Insomma, in questa situazione burrascosa si dovevano giocare i mondiali di calcio. Avalanche è di ferro, usa il pugno di ferro, anche perché Videla gli ha detto: io so i tuoi scheletri nell'armadio, perché c'era una situazione, diciamo, Avalanche era il presidente della FIFA prima di Blatter. Insomma, decide di non cambiare la sede dei mondiali. I mondiali si giocano in Argentina, perché in Argentina c'è un paese splendido. Non è vero che c'è la dittatura. Tutti iniziano a mentire affinché quella Coppa del Mondo si possa giocare in Argentina. E così viene giocata in tutto questo casino. E nonostante le madri dei desaparecidos, che ogni domenica con il fiocco bianco in testa chiedono giustizia, chiedono dove siano finiti i loro figli, almeno di trovarli per avere una tomba, una bara su cui piangere, ma questo purtroppo non accadrà. La storia ci dirà che non accadrà. Fatto sta che si giocano in tutto questo stato surreale i mondiali di calcio. Il presidente Videla, anziché di metterli nella città di Buenos Aires, mettere le squadre ospitanti nella città di Buenos Aires, li disloca in zone residenziali al largo della città. Zone bellissime, infatti molti giornalisti diranno: ah, che bel paese, è una zona residenziale, è un paradiso l'Argentina, non è vero che non succede nulla, che ci sono le torture, eccetera eccetera eccetera. Però c'è qualche giocatore che si rifiuta di andare a giocare alla Coppa del Mondo, e uno in particolare, ovvero Johan Cruyff, il grande Johan Cruyff, fautore del calcio totale con l'Ajax, col Barcellona, ma soprattutto anche con la nazionale olandese, che riuscì a portare 4 anni prima la nazionale olandese nella finale della Coppa del Mondo. Lui decide di non volerci andare, di non volerci andare in quella Coppa del Mondo, perché lui dice che lo stato delle cose non è positivo, mentre l'Italia partecipa a quella Coppa del Mondo ed è stata sorteggiata nello stesso girone dell'Argentina, e l'Italia in quella Coppa del Mondo batterà l'Argentina, e metterà l'Argentina nei guai, perché praticamente l'Argentina rischia l'eliminazione. Per Menotti, l'allenatore dell'Argentina, abbiamo nominato primo, simbolo del Rosario Central, è un problema, perché ha paura che se la squadra viene eliminata di girone possa succedere qualcosa a lui e ai giocatori, quindi cerca di convincere i giocatori: ragazzi, diamoci da fare. Però sono spacciati, nel senso che devono incontrare il Perù e devono vincere con almeno 5 gol di scarto per passare il turno. Inizia l'ultima partita del girone tra Perù e Argentina. Il primo tempo finisce sull'1-0 per gli argentini. E i giocatori del Perù racconteranno che all'intervallo sono scesi i militari della giunta di Videla, e in maniera molto cruenta hanno fatto sapere: o fate vincere l'Argentina con più di 5 gol di scarto, oppure voi da questo stadio non uscirete vivi. Fatto sta che la partita venne vinta 6-0 dall'Argentina. Ovviamente l'Argentina aveva giocatori di classe, e quello più di classe era Mario Kempes, che poi ebbe una grande carriera al Valencia in Spagna, che vinse una Coppa delle Coppe col Valencia. Insomma, penso prima di Maradona il giocatore argentino più forte, anche se io tecnicamente non sarei d'accordo, però diciamo viene ricordato come il giocatore argentino più forte di sempre prima di Diego Armando Maradona. Così l'Argentina va in finale contro l'Olanda che fa un bel mondiale lineare, che ci elimina in semifinale, e l'Olanda che in quella finale non viene tutelata per nulla. Ci sono alcune, diciamo, decisioni arbitrali che lasciano a desiderare, però l'Argentina alla fine vince quella Coppa del Mondo. La giunta militare si fa inquadrare con i giocatori e con quella Coppa del Mondo, e per loro è una grande vittoria, perché il mondiale della giunta militare, il mondiale di Videla, Videla prende quella vittoria come se fosse un proprio trionfo personale, quando effettivamente non lo era, sostanzialmente. E nella premiazione sia Menotti e sia l'allenatore dell'Argentina sia Kempes rifiutano di dargli la mano. Kempes qualche anno dopo dirà: non gliel'ho voluta stringere la mano, quando prima si giustificò c'era un po' di casino e non sono riuscito a stringerglielo. E Menotti invece dirà che ai suoi giocatori diceva sempre: non giocate per loro, indicato quelli della giunta, giocate per i cittadini, per quei ragazzi che sono morti, per quelli che sono spariti. Però dopo la vittoria del mondiale si aspettavano che lui potesse dire qualcosa o potesse dedicare qualcosa a tutte quelle famiglie che vivevano il dramma della perdita di un marito, di un figlio, di un fratello, di un padre, e invece non lo fece. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rodar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar, me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré. E qui apriamo il capitolo del più grande, ovvero di Diego Armando Maradona, del Pibe d'Oro. Credo che tutti conosciamo la sua storia, ci sarebbe veramente poco da dire di nuovo su Diego Armando Maradona. E collegandoci al Mondiale del 1978, uno dei più grandi dubbi, forse il più grande dubbio di Luis César Menotti, era proprio quello se convocare Maradona o meno. All'epoca Maradona aveva 18 anni ed era la stella dell'Argentinos Juniors, nonostante la giovanissima età. Fu in ballo fino all'ultimo giorno ed è stato un dubbio che non fece prendere sonno per niente al CT argentino, però poi alla fine decise di puntare, poi i risultati gli diedero la ragione, a un gruppo più esperto o un gruppo di giocatori che avessero già un certo tipo di esperienza. E alla fine quella scelta fu una scelta che comunque fu vincente, perché l'Argentina vinse i mondiali, come li vinse poi ne abbiamo già parlato. E per Diego Maradona, più volte intervistato, quella è la più grande delusione della sua carriera calcistica, però quella delusione è stata anche la più grande motivazione a fare di meglio, a dimostrare di non essere un giocatore nazionale ma di essere il miglior calciatore. Lo cercano sin da bambino, è il bambino che abita nella baraccopoli di Villa Fiorito, una delle più povere di Buenos Aires. Ci va anche la televisione, lo va ad intervistare, perché dicono c'è un ragazzino che col pallone fa cose straordinarie. Alla fine c'è una grande contesa tra due squadre, il River Plate e l'Argentinos Juniors. Lui è tifoso del Boca, la maglia del River non la vuole neanche vedere da lontano, per cui alla fine opta per andare a giocare nell'Argentinos Juniors, una squadra che era di medio-bassa classifica. Ci va lui e ovviamente diventa una squadra di medio-alta classifica, sfiorando più volte il titolo. E poi arriva il 1982. Nel frattempo Maradona realizza uno dei suoi sogni, ovvero quello di giocare per la squadra del cuore, ovvero il Boca Juniors, la squadra nel quale ha sempre sognato di giocare, nello stadio La Bombonera, in cui ha sempre sognato di segnare caterbe di gol. E succederà proprio questo, segnerà da ogni angolazione, segnerà da ogni dove. È un Maradona di un livello troppo superiore per quel tipo di campionato, e lo dimostra partita dopo partita, segnando miriade di gol. Infatti ancora tutt'oggi Maradona è il recordman per gol segnati della storia del Boca Juniors. Però arriva anche il Mondiale dell'82 e lui ovviamente viene convocato. Finalmente ha la sua rivalsa, ha la possibilità di diventare campione del mondo e di raggiungere l'apice dopo aver indossato la maglia della squadra del cuore e segnato e vinto tanto, ha la possibilità di vincere anche la Coppa del Mondo. Però questo sogno viene nuovamente spezzato, e viene spezzato dall'Italia, viene buttato fuori dall'Italia di Berzot, un'Italia con in difesa un Claudio Gentile che non gli fece passare neanche un filo d'aria in quella partita. E così altra grande delusione. Nel frattempo a questa delusione se ne accomuna un'altra, perché il Boca Juniors è in grave difficoltà economica. L'unico modo per uscirne è vendere appunto il giocatore più forte, Diego Armando Maradona. Arriva il Barcellona che fa un'offerta irrifiutabile e Diego è costretto ad andare via, lascia l'Argentina in lacrime. A Barcellona credono di aver trovato il messia, colui che cambierà la storia del club dopo Johan Cruyff. Però non sarà proprio così. Il Maradona visto a Barcellona è un Maradona che sicuramente segnerà qualche gol, ma non è un Maradona che lascerà il segno con grandi giocate, anzi è un Maradona molto scuro. Si infortuna durante una Athletic Bilbao a Barcellona e rimarrà fuori dai campi per tanti e tanti anni. Lì vivrà in una villa, diciamo, molto agiata, dove ci sarà una movida, dove in quella città scoprirà la tossicodipendenza, la dipendenza per la cocaina. La lontananza dei campi lo porta ad avere una vita mondana sfrenata e il ritorno in campo non è dei migliori, però segna qualche gol e si ritrova di nuovo nella partita di ritorno contro l'Athletic Bilbao. L'Athletic Bilbao che lo marca sempre stretto e a un certo punto viene a contatto con il calciatore, se non erro, Goicoechea, con il quale gli ha procurato l'infortunio da lì nella Nacionalis. A Barcellona capiscono che Maradona non ha per nulla funzionato, bisogna in qualche modo disfarsene, non perdendoci tanti soldi. E così arriva la vera svolta di Diego Armando Maradona, secondo me. La scelta di andare a giocare in una squadra non top club, ma in una squadra che fino ad allora era una squadra di medio-bassa classifica in Italia, ovvero il Napoli. E a Napoli sono totalmente estasiati nel sapere che Diego Armando Maradona arriverà ad indossare la maglia azzurra. E già il primo giorno racconta che questo sarà un amore che sostanzialmente non finirà mai. 70.000 persone al San Paolo nel giugno del 1984 a vedere soltanto palleggiare per pochi minuti Diego Armando Maradona. I primi anni il Napoli si avvicina sempre più alle parti alte della classifica e diventa sempre più competitivo con le squadre del nord, perché comunque quel Napoli non è soltanto la rivalsa di Diego Armando Maradona, ma è la rivalsa del sud Italia. E alla fine succede praticamente questo: il Napoli arriva a vincere due scudetti e addirittura la Coppa UEFA. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Toda tuya, nene, suéltala, toma. Dale, toca bola. Ahí te va, síguela. Esa. Si yo fuera Maradona, viviría como es, porque el mundo es una bola que se viva flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona y una mano en el altar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, remátala, vamos ahí, esa, que llegó el maestro. Il momento in cui Diego Armando Maradona spiega tutte le ali è ovviamente il mondiale del 1986, un mondiale dove prende per mano la squadra e la trascina alla vittoria. Quell'Argentina non era una squadra fatta di grandi campioni, era una squadra fatta di buoni giocatori, ma non erano giocatori di grandissimo talento. Lui era l'unico che era in grado di trascinare quella squadra. E fu così, partita dopo partita, fino alla vittoria contro la Germania ai tempi supplementari. Però la partita che noi tutti ricordiamo di quel mondiale, che gli argentini preferiscono celebrare più di quello del 78, infatti ogni anno c'è la ricorrenza al mondiale dell'86 e si celebra quella vittoria straordinaria. In quel mondiale la partita delle partite fu quella contro l'Inghilterra, perché aveva un valore non solo un valore sportivo, ma soprattutto un valore politico, perché fino a 3 anni fa Inghilterra e l'Argentina combattevano l'una contro l'altra al largo delle Falkland per contendersi questa isola, che per gli argentini erano le Malvinas per gli inglesi erano le Falkland. Insomma, morirono molti ragazzi argentini durante questa guerra. L'Argentina perse questa guerra e Videla fu arrestato e finì il regime appunto della giunta militare in Argentina. Però morirono tanti, tanti giovani, tanti ragazzi come lui, e quindi lui si sentiva la responsabilità di rendere giustizia a quei ragazzi che erano andati al fronte a morire. E per lui non era una partita, era l'estensione di quella guerra, era la voglia di rivalsa di battere gli inglesi, e fu così, fu così. Fu una partita straordinaria dove accadde di tutto. Sin dall'inizio della partita, dove viene designato un arbitro brasiliano, ma gli inglesi non ci stanno perché non vogliono un sudamericano ad arbitrare quella partita. Così viene designato un francese per la partita, ma gli argentini dicono: no, un sudamericano no, però noi non vogliamo neanche un europeo. Insomma, si bisticce. Alla fine l'Europa, alla fine la FIFA sceglie un allenatore extra sudamericano ed extra europeo, ovvero un arbitro africano che sicuramente non aveva l'esperienza per arbitrare quella partita. E in quella partita succede di tutto. Il primo gol fu assurdo perché pensiamo se ci fosse stato il VAR, quel gol fu sicuramente annullato, ovvero il gol che per Maradona è di testa, ma per molti è di mano. Poi anni dopo Maradona disse: sì, quella non è la mia mano, ma è la mano di Dio che ha fatto gol. Insomma, era un modo per vendicarsi nei confronti degli inglesi. L'Argentina va in vantaggio, ma qualche minuto dopo succede, penso, il gol più bello della storia del calcio, ovvero un gol straordinario dove Maradona prende la palla a metà campo e praticamente supera tutti i giocatori inglesi fino ad arrivare davanti a Shilton e poi superarlo e fargli gol. E quel momento è uno dei momenti, secondo me, più belli, più unici, forse il momento più importante probabilmente della storia del calcio, perché alla fine quella telecronaca di Victor Hugo Morales per la radio argentina è un'icona del calcio degli anni 80, ma non solo del calcio, della storia dell'Argentina, dove il relator Victor Hugo Morales alla fine si scusa per essersi messo a piangere per la gioia di quel gol. Insomma, l'Argentina vince quel mondiale e l'anno dopo ovviamente Maradona porta anche Napoli sul tetto d'Italia, come abbiamo detto già prima. E ovviamente il Diego Armando Maradona a Napoli diventa come San Gennaro, anzi è l'incarnazione di San Gennaro vera e propria. E la sua vita non è una vita tra virgolette normale, non può essere una vita tra virgolette normale, perché sostanzialmente tutti lo cercano, non può andare in centro e farsi una camminata perché sarebbe inizia a essere un po', diciamo, costretto a chiudersi e a vivere di vita notturna poi alla fine, perché Maradona non poteva fare altrimenti. Ma la vita mondana di Maradona, il lato oscuro di Maradona di cui abbiamo parlato a Barcellona, continua anche a Napoli. Mi viene contestata una vita sregolata, una vita dove lascia figli non riconosciuti, poi riconosciuti, gli viene contestato l'uso delle droghe, gli viene contestato il fatto di frequentare personaggi dell'ambiente della malavita napoletana. Insomma, gli viene contestato tutto, ma tutto gli si può dire a Diego Armando Maradona, tranne che, nonostante la vita sregolata, nonostante il fare tardi, quando Diego Armando Maradona indossava la maglia del Napoli e scendeva in campo, dava il 101% e faceva sempre la differenza. E questo, a memoria, nella storia del calcio, secondo me, non è mai successo. Io non so se sbagliamo o non sbagliamo a scindere il Maradona Maradona uomo e dal Maradona calciatore, se dobbiamo unire le due cose, se dobbiamo scinderle, però nessuno può negare che quello che ha fatto Maradona nel calcio, nessuno lo ha mai fatto. con tutto il rispetto per Lionel Messi, cito ancora Victor Hugo Morales, che è il maggior relatore della radio argentina per quanto riguarda il calcio, in cui dice: sì, Maradona è ancora seduto sul trono, però Messi e Cristiano Ronaldo gli hanno soltanto tagliato una gamba di quel trono. Ancora lui sta seduto molto molto comodamente su quel trono. Io non posso che essere d'accordo. Ovviamente a Napoli lui tende ad andare via da Napoli, ha un accordo con il Marsiglia, vuole una vita più tranquilla, vuole una vita normale, ma Ferlaino rifiuta l'offerta del Marsiglia di Bernard Tapie e continua a giocare nel Napoli, continua a portare un altro scudetto a Napoli. Però l'anno successivo succede qualcosa, viene trovato positivo all'antidoping e lì nella notte va via, nel modo peggiore Maradona abbandona Napoli, la sua Napoli, per non farci ritorno per tanti e tanti e tanti e tanti anni. Che dire, è qualcosa di è qualcosa che ti fa capire il lato oscuro di un uomo che ha avuto tutte le sue problematiche e alla fine ne paga le conseguenze. Maradona poi andrà a giocare qualche mese nel Siviglia, ma non ce la farà, poi non andrà bene poi a Siviglia e sembra lasciare momentaneamente il gioco del calcio. Lui si riabilita, cerca di risolvere i suoi problemi con la tossicodipendenza e arriva una telefonata dalla Federazione Argentina. Bilardo, il suo vecchio allenatore, gli chiede se se la sente di tornare a giocare per l'Argentina al Mondiale di Calcio che si giocherà poi in America nel 1994. Lui dice sì, io ce la faccio, e si mette in forma, cerca di farsi trovare pronto per l'appuntamento con la Coppa del Mondo del 94. E Diego Armando Maradona andrà a giocare qualche partita nel Newell's Old Boys, dopodiché andrà a giocare queste due ultime, perché saranno due partite, nel mondiale del 1994. In quel mondiale del 1994 inizia col botto, fa un gol spaventoso. Nonostante i 34 anni ormai sia sul viale del tramonto, Maradona gioca un calcio straordinario, stratosferico. L'Argentina vince, anche la partita successiva contro la Nigeria viene vinta, però succede qualcosa che nessuno si aspettava. Dopo quella partita con la Nigeria, Diego Armando Maradona praticamente viene trovato positivo al doping. Per Maradona è stato fatto apposta, perché sostanzialmente nessuno lo voleva sul tetto del mondo con l'Argentina dopo tutto quello che era successo. Però fatto sta che Diego Armando Maradona viene praticamente squalificato ed è la fine, anche se andrà a giocare qualche anno nel Boca Juniors, la fine della sua storia da calciatore. E in tutto questo Diego Armando Maradona sarà l'unico a essere insignito del pallone d'oro, perché all'epoca non potevano essere assegnati a giocatori extra europei alla carriera, ed è l'unico a trovare tutt'oggi ad avere il pallone d'oro alla carriera, cosa secondo me buona e giusta. Tiene Maradona, lo marca dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas. por este Argentina 2, Inglaterra 0. Cominciata nel sole, poi è finita nel vino. Non c'era niente da perdere, solo un vulcano vicino. In uno stadio un po' verde, un giocatore argentino. Ma di questo racconto protagonista è il destino. Tempo di fuoco e di creta, gente verde di rame. Giorni di lunga speranza, vecchi ricordi di fame. Calciando in rete il pallone, il cielo bruciava la stanza. Mentre la sposa bambina, a un ritmo leggero di danza, giocava nell'aria di Mergellina. È cominciata nel sole, poi è finita nel vino. Non c'era niente da perdere, solo un vulcano vicino. In uno stadio un po' verde, un giocatore argentino. Ma di questo racconto protagonista il destino. Era mezz'ala tornante nel campionato argentino, col 10 sopra la schiena. 3 anni interi di Spagna, poi torno dentro l'arena con una storia un po' strana per l'avventura italiana. Da lì non si era più mosso come un cane dall'osso e aveva scalato il destino. È cominciata nel sole, poi è finita nel vino. Niente da perdere, sono un vulcano vicino. In uno stadio un po' verde, un giocatore argentino. Ma di questo racconto protagonista il destino. Finisce dentro la nebbia, nel sole rosso al declino. Più niente resta da perdere, spento il vulcano vicino. E nello stadio deserto è solo il giocatore argentino. Ma di questo racconto protagonista il destino. Più niente resta da perdere. E nello stadio deserto è solo il giocatore argentino. Vorrei chiudere questa puntata dedicata all'Argentina nominando un giocatore che più non dirà nulla, ma che secondo me è la massima espressione della nostra, ovvero il modo di intendere il calcio degli argentini, il privilegiare il bel gioco a posto del risultato. E tra i massimi esponenti, se non il massimo esponente, è il Trince Carlovic, un uomo che non ha scritto pagine di storia del calcio contemporaneo, ma che in Argentina è una vera e propria icona, che in Argentina è tra i giocatori più forti della storia del loro movimento calcistico. El Trince Carlovic è figlio di immigrati slavi, e il fatto che lui sia di origine slava e il fatto che si trovi in un paese come l'Argentina rende lui il personaggio perfetto per interpretare il calcio inteso dagli argentini. Perché nelle ex repubbliche della Jugoslavia, se eri un tifoso della Stella Rossa, della Dinamo Zagabria, del Partizan Belgrado, se la tua squadra del cuore vinceva per 1-0 non eri soddisfatto. Anzi, c'erano tifosi che chiedevano addirittura il prezzo del biglietto rimborsato perché non avevano visto lo spettacolo, perché si privilegiava lo spettacolo al gioco. E lui non è da meno. Lui è un giocatore che ama giocare a calcio, ma ama giocare a calcio da solo, perché si prendeva il pallone dai compagni e lui faceva dei numeri straordinari, dei numeri probabilmente circensi. Qualcuno lo chiamerà fenomeno da baraccone, ma secondo me non è così. È uno che ha segnato gol impossibili. Il gol tipo di Van Basten degli europei dell'88 lui l'avrà fatto tante e tante volte, biciclette, roulette, rabone, qualcosa che comunque nessuno vedeva in nessun altro campo dell'Argentina quando iniziava a esserci il resultadismo, ovvero il risultato a tutti i costi, anche giocando male. E quello stadio era straordinario. Quando si giocava lui, intorno a quello stadio c'erano i manifesti, e stanotte Juega e il Trinche, perché se lui giocava il prezzo del biglietto era altissimo, se non giocava lui non aveva senso di andare a vedere la partita. E c'è un altro racconto che fa capire quando sia stato un giocatore fortissimo. Ogni anno si gioca la partita tra la nazionale argentina e la rappresentativa dei giocatori di Rosario, ovviamente giocatori che per la maggior parte sono parte del Newell's Old Boys del Rosario Central. Anzi, le due squadre si litigano per avere in maggioranza nell'undici iniziale propri giocatori in questa rappresentativa, in questa partita che è molto sentita dai rosarini. Però quando arriva c'è il Trinche, tutti sono contenti, 5 da un lato, 5 dall'altro, il Trinche là davanti all'attacco, quindi massima uguaglianza e parità per tutti. È la prima volta che il Trinche gioca contro la nazionale argentina. Nessuno sa chi è tra i giocatori della nazionale argentina, compreso l'allenatore della selezione albiceleste. Il Trinche segna 5 gol nel giro di 20 minuti, irridendo, con tunnel, rabone, con tacchi, gol da lontano, rovesciate, la difesa della nazionale argentina, una delle nazionali più forti al mondo, no? E l'allenatore di quella nazionale andò dall'allenatore della rappresentativa di Rosario chiedendo in ginocchio: per favore toglimelo, perché io non posso accettare che uno venuto dal nulla umili la nazionale argentina, umili una delle nazionali più forti. Lui ci prova a giocare tra i professionisti, giocherà un anno nel Rosario Central, però poi alla fine non riuscirà ad esplodere, perché era un calcio totalmente diverso, fatto di schemi. Lui giocava il suo calcio, litigava con gli allenatori, per cui ritornò nel piccolo Rosario Central, dove terminò la sua grande carriera. Il Trinche è ancora tutt'oggi una di quelle icone. Infatti Maradona, quando andò a giocare nel Newell's Old Boys preparandosi per il mondiale del 94, gli chiesero: ma tu sei il più grande giocatore in questo momento che ha mai calcato la scena del calcio a Rosario? Lui dice: no, io non potrò mai essere il migliore, perché il migliore è il Trinche. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati al termine di questa lunga puntata, di questo tour. Poi nel corso della stagione parleremo anche di Brasile, ma non solo, ma di Uruguay, di Colombia e degli altri paesi sudamericani dove c'è un calcio veramente sconosciuto, ma che ritengo affascinante e interessante. Vi ringrazio per avermi seguito e vi invito a darci dei consigli, a darci dei suggerimenti sugli argomenti da trattare nel nostro podcast. Detto questo, vi invito alla prossima puntata. Grazie a tutti e ciao.